La Tyrolienne delle Cingallegre ora si fonde, ora si stacca dal flautato nitido e vigoroso dei tordi. Le tordine, lisce, fine e snelle, modulano gli zii schizzinosi del loro ritornello, mentre i fringuelli sfacciati e sonori avventano o strisciano tutti i loro versi, che nella letteratura ornitologica sono accuratamente classificati e si chiamano il francescomio, il cripiopeo, il barbazio, il cescrio, la cantata con lo sfrin, la cantata col nicchio e lo squinquinnio. Tanti modi, insomma, che chi li sa tutti può aspirare a dirigere un conservatorio. Il primo sole sorprende tutti in estasi, specialmente gli appassionati, verrebbe voglia di dire i tifosi, venuti da ogni località delle Venezie, dalla Lombardia, dalla Toscana, dall'Emilia, dalla Romagna. I mediatori sono agli ultimi acquisti per conto di compratori pudicamente nascosti. Ansie per l'esito della premiazione, ansie per l'imminente gara fra uccellatori che s'accingono ad imitare gli uccelli nel teatro stipato anch'esso di appassionati. Con chioccolo e senza chioccolo, soli o in gruppo, si susseguono alla ribalta figure di campagnoli. Impossibile seguirli tutti. Basti a rappresentare gli anziani Luigi Livotti, il quale nella sua bottega udinese di tornitore in legno gareggia con i cantori in gabbia. Salvo presentarsi immancabilmente a Sacile fra i colleghi chioccolatori. Basti a rappresentare i giovani il fornaio 19enne Renato Basso da Porcia, il quale senza chioccolo imita il rosignolo nel suo idillio primaverile. Siamo immersi in una passione silvestre ricca di poesia, oltre che di abilità tecnica veramente singolare. È la passione che entusiasma i sacilesi, orgogliosi della loro sagra dei Iosei, che sanno presentare sempre più attraente e che, se imitata da altri centri, non sarà mai superata. Come non sono facilmente superabili nel loro colloquio nell'aerea altana di un uccellatore udinese, questo tordo e questo merlo, entrambi maestri più volte premiati. Legata al massiccio del Monte Cavallo che serge dalla immediata pianura, all'altopiano boscoso del Cansiglio, alle idilliache sorgenti della Livenza care ai pittori, al suo fiume dalla silente placida vena, Sacile possiede una cornice naturale inimitabile. Possiede, nell'ambito della città, una cornice architettonica di veneziana bellezza. Lo conferma il canto, a suggello della Sagra dei Iosei. La 622esima della serie, iniziata nel 1334, come assicurano gli annali della comunità saccilese. La nostra festa, dappertutto il corre qua, anche i turchi la conosce, nessun altro noi la dà. Quattro cante passani, il cantor col suo stornel, ne ripete dalle chiavette più bello. Abbiamo trasmesso La Sagra dei Osei di Secile, 26esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Renato Simoni e Chino Ermacora.